Speciale Ferrara Arte Estate 2024, che poi sarà fino al termine del 2024, questa doppia esposizione presente nella splendida sala del Piano Nobile del Castello Estense. Due nuove mostre organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara. Tra l'altro, oltre che la possibilità di conoscere questi artisti che meritano indubbiamente il podio, abbiamo la possibilità di valore aggiunto nella sede bellissima del Castello Estense. Ne abbiamo già parlato con il curatore, co-curatore delle esposizioni, Pietro Di Natale, che ritroveremo anche quest'oggi, per quanto riguarda Antonio Maria Nardi, I colori della vita, una artista che ha dato uno sguardo oltre che alla spiritualità, la capacità tonale, la bellezza e l'originalità. Ora conosceremo Maurizio Bottoni, Eterna Pittura. Abbiamo parlato del triplo binario di Antonio Maria Nardi con le caratteristiche che in precedenza vi ho elencato. Allo stesso modo altre caratteristiche troveremo in Maurizio Bottoni, ma c'è un aspetto che unisce questi artisti. Stiamo parlando di un Novecento che chiaramente è attraversato in maniera importante dalle avanguardie, quindi non cadete nel tranello di qualcosa che porta al passato. Assolutamente la tradizione con sguardo e originalità contemporanea è ben diversa dall'essere passatisti, anzi tutt'altro, è valore aggiunto, è conoscenza, è estetica, è bellezza e anche motivo di ispirazione e di originalità. Questo l'ho sempre sostenuto, per dare uno sguardo totale all'arte e non unicamente richiudendosi dentro un recinto. Anzi, non deve affatto essere così, proprio per avere modalità di dare spazio in avanti, pur avendo conoscenza importantissima della tradizione. Una tradizione che certamente non è motivo di essere passatisti, questo ci tengo a sottolinearlo, perché oltre che da bellezza estetica, da capacità tecnica e da ispirazione, vi è la conoscenza, e questo è fondamentale per chi ha la passione dell'arte o per chi ha la curiosità e la voglia di emozionarsi di fronte a questi capolavori. Quindi direi di iniziare la nostra conversazione con Pietro Di Natale, co-curatore delle due esposizioni, che ringrazio tantissimo per la sua disponibilità. Esattamente, William. Beh, diciamo che come Nardi, Bottoni possiamo dire che è un traghettatore dei valori universali dell'arte nel nostro tempo. Bottoni nasce a Milano nel 1950 e frequenta da giovane Giorgio De Chirico, che lo incoraggia a ritornare al mestiere. Presto si dedica all'incisione, alla pittura a tempera su pergamena, e prepara manualmente i colori e riscopre, riutilizza ad esempio l'antico procedimento dell'incammuttatura delle tavole, che era quell'applicazione con la colla animale di una tela sottile al fine di ridurre i danni che i movimenti del supporto ligneo possono provocare ai sovrastanti strati pittorici e preparatori. E soprattutto cosa decide di fare? Di percorrere la strada mai più abbandonata di una figurazione di carattere realistico che si nutre costantemente degli esempi dei grandi maestri del passato, e i bellissimi dipinti raccolti nell'antologica, eseguiti dal 1974 ad oggi, lo dimostrano, perché sono immagini definite da atmosfere nitide, da una minuzia descrittiva e una precisione di sapore fiammingo che talvolta ingannano l'occhio anche grazie a espedienti illusionistici e anche collaudati, ad esempio la presenza di cartigli con scritte che orientano la lettura dell'opera, o delle mosche che sono una sorta di firma dell'autore con evidenti intenti simbolici. Sì, a proposito di aspetti simbolici, anche la parte dove teschi e resti mortali diventano protagonisti, che hanno un chiaro messaggio, Pietro. Assolutamente, infatti le opere dove sono protagonisti teschi e scheletri, evocano evidentemente la caducità della vita umana e la vanità delle cose terrene, ma ci sono altri, diciamo, riferimenti, altre riflessioni che davanti ai quadri di Maurizio Bottoni si possono fare. Ad esempio, il grande spettacolo della natura, chiamiamolo così, è celebrato nella serie dedicata agli animali, che nella sua traduzione pittorica acquistano quasi un valore sacrale, e ancora nei dipinti di paesaggio, che sono delle vedute straordinarie che trasmettono un senso di grandezza smisurata. E ancora, rigogliosi brani di vegetazione, troviamo foglie consumate, gambi afflosciati dei fiori, sfere dei soffioni che si dissolvono, e ovviamente anche in questo caso possiamo ritrovare dei riferimenti allo scorrere inesorabile del tempo, a tutti, insomma, questi temi molto alti e universali sui quali Bottoni ci invita a riflettere davanti ai suoi straordinari dipinti. Perché 07 per commentare Maurizio Bottoni? Stiamo ascoltando il loro primo EP in vinile, quindi perdonate qualche scricchiolio. Dicevo di conoscenza e valore aggiunto nell'interpretazione, che interpretazione poi non diventa, in quanto l'originalità degli artisti dà uno slancio ulteriore. La conoscenza, perché proprio grazie a questi autori, come in musica stiamo ascoltando adesso, abbiamo la possibilità di approfondire ulteriormente i grandi maestri da un'altra angolazione. Qui stiamo ascoltando soul, ambient, elettronica, musica da altri spazi, come questo canto sotteso ci riporta in altre zone, in altre dimensioni. C'è una caratteristica ulteriore, anzi due, che osservando e ammirando le mostre in questione, ora in particolare quella con Maurizio Bottoni protagonista nel Castello Estense di Ferrara, ho avuto la possibilità di visionare entrambe le esposizioni, vi assicuro, oltre che la possibilità di conoscere questi artisti che riportati da Ferrara Arte e dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara portano riflettori su figure importanti che magari a volte non hanno avuto quel palcoscenico che meritano. Ecco, in a questo segmento di conversazione aggiungo una particolarità che troviamo nell'artista Bottoni. Sì, aggiungo anche con un grande gusto, eh. Secondo me questa è una parte che non va trascurata, nonostante il bypassare determinati aspetti per l'epoca. Questo è un punto che lo può collegare con Nardi. Sto parlando appunto delle avanguardie che attraversano anche e bypassano entrambi gli artisti. Questo è un punto che li può accomunare, e nello stesso tempo però con il gusto e con la capacità molto incisiva di dare il messaggio sotteso, ma allo stesso tempo con quello che non guasta né la bellezza. Scusa questa mia divagazione, ma ho voluto portare anche queste immagini. Ma tu sei bravissimo, capisci tutto e riesci anche attraverso le tue parole a queste conversazioni a fare passare un po' di quello che si andrà a vedere, perché è molto difficile di parlare delle immagini a parole, ma ce l'ha fatta. Sicuramente hai pienamente ragione, perché entrambi affrontano i generi tradizionali con una intelligenza compositiva e formale molto alta, e affrontano il ritratto, la natura morta. Bottoni è come Nardi, anche qui i soggetti sacri, ad esempio c'è in mostra un bellissimo Cristo morto che rinvia tanto a Mantegna quanto a Grunewald, è un San Sebastiano molto agido con il quale si era aggiudicato il premio Suzzara nel 1990. È proprio questa capacità, come abbiamo detto all'inizio, di portare i valori universali dell'arte nel nostro tempo, e quindi, come abbiamo voluto intitolare la mostra, Eterna Pittura. Questo è il brano che dà il titolo a tutto l'EP 07, il loro primo lavoro, eh. Ve n'è un'idea di sacro, ve n'è un'idea evocativa, allo stesso modo è quello che troviamo in mostra. Allo stesso tempo c'è un'ulteriore caratteristica in tutto ciò legato alla natura, ma non solo in tutti i lavori di Bottoni, eh. La motilità, il movimento, Questo è un aspetto che, ammirando questi soffioni così nell'immediato definiti, nella loro trasformazione dalla pianta meravigliosa del tarassaco, no? Chi non ha mai giocato a portarli in libertà facendoli volare? Ecco, questo è accompagnamento musicale a tal volo. Ne troviamo un accompagnamento visivo nelle opere di Bottoni, perché danno l'idea incredibilmente in ogni accezione del movimento, della motilità. La tecnica dell'incamottatura, di cui parleremo e che non conoscevo, quindi avere la possibilità di parlare con curatrici, curatori, organizzatori, direttori museali e di sedi espositive, chi fa ricerca nell'arte, oltre a chi ne dà il giusto valore e riconoscimento, portano poi anche a queste piccole ma grandi lezioni di storia dell'arte, che secondo me al Breakfast Club, al giovedì, danno una visione, sì, certo, estetica, ma anche culturale, storica, artistica, non indifferente. Vi parlavo di una motilità, di un movimento, di un aspetto sacro, e non solo, anche come è stato citato da Pietro Di Natale, quello che è un riporto. Sì, con determinati simboli che danno riconoscimento, la parte dove teschi e resti mortali, certo, indubbiamente la caducità della vita, ma vi è anche una forza, se vogliamo, che non mette timore, non mette assolutamente quell'aspetto né gotico e nemmeno inquietante, che fanno parte certamente di percorsi artistici. Ecco, tutt'altro. In questo caso, anche stavolta, troviamo movimento, troviamo una sorta di aspetto naturale delle cose, anche di quelle che dovrebbero essere più inquietanti, una sorta di accettazione. Certo, e ne dà un'idea, e un altro esponente, onore al merito a chi dà il giusto riflettore nel panorama che è quanto mai esteso anche ad artisti di cui magari si parla un pochettino meno, secondo me ingiustamente. Quindi ottimo il lavoro di ricerca, il lavoro di preparazione e di trasmissione per quanto riguarda un'estensione in ambito artistico e culturale. In conclusione, quante opere in mostra, Pietro? Abbiamo 60 dipinti di varie tecniche. Ce ne sono alcuni incredibili, ad esempio delle vedute di boschi o delle zolle, che è un tema che affronta, tridimensionali, ovvero sono dipinti davanti ai quali si vede la profondità attraverso questa tecnica della pittura su vari vetri che si susseguono, e quindi è veramente interessante. Dopodiché ammirerete queste opere, che io dico sempre hanno una visione diversa, una visione un po' fiamminga, ovvero si parte dal particolare per giungere all'universale, quindi ci si può fissare e poi aprire lo sguardo alla dimensione dell'opera complessiva. È veramente molto molto interessante vederli dal vero, perché danno la prova di una perizia tecnica veramente impareggiabile. Ne abbiamo la possibilità fino al? Fino alla fine dell'anno abbiamo queste due mostre, e quindi è un'occasione sicuramente imperdibile per scoprire due grandi interpreti che hanno guardato al passato con gli occhi del presente. Io ti ringrazio tanto per questa piccola ma grande lezione di storia dell'arte e ti do appuntamento per un'altra esposizione a Castello Estense. Grazie, no, Pietro. Sono io a ringraziare te, che sei veramente numero uno, sensibilissimo, e soprattutto dai spazio appunto a quelle. Adesso diciamo Maurizio Bottoni è sicuramente uno dei maggiori interpreti della figurazione contemporanea, molto molto noto anche a livello diciamo internazionale, ma dai spazio anche artisti meno noti che non sono diciamo minori ma solo meno conosciuti come Nardi, che abbiamo riscoperto in questa occasione, quindi ti ringrazio davvero. Beh, onore al merito a chi mi dà questa possibilità. Buona giornata. Buona giornata. Ciao a tutti, grazie mille. Estate 2024, Ferrara Arte, doppia esposizione. Abbiamo portato questo percorso con caratteristiche molto particolari. Mi rifaccio al periodo acid jazz, in cui arrivavano le critiche dai puristi, no? Mentre invece anche ascoltare Roy Ayers, Terry Callier, certamente dà la possibilità poi di conoscere, andare a ricercare artisti di anni precedenti che hanno fatto la storia della musica, da un'angolazione di gusto più contemporaneo, da un'angolazione di scrittura musicale che danno visione allo stesso tempo, pur essendo di percorso legato, più che legato direi di sguardo tradizionale, ma allo stesso tempo con un'originalità, e se poi aggiungiamo anche il gusto, ok, missione compiuta. Concludo a proposito di emozioni con un catalogo veramente bellissimo, catalogo ben forbito, ben compilato, strutturato, da portarvi valore aggiunto a questo progetto artistico. E a proposito di sensazioni, le mie amate micro sensazioni, a proposito di natura, il percorso che metterò anche in copertina a questa puntata di In Mostra, sono con la natura per Bottoni. Queste zucche appese, beh, una zucca appesa potrebbe dare un'idea inquietante, no, assolutamente, ha un'estetica unica, tra l'altro meravigliosa, molto ispirata e tecnicamente da, meritoria di emozione e di attenzione, e allo stesso tempo un'idea di movimento. Un un oscillare, una reiterazione ritmica. Bene, con 07 ho provato a dare idea visiva con le note, ringraziando ancora Pietro Di Natale, co-curatore delle esposizioni nelle splendide sale del Piano Nobile del Castello Estense, due nuove mostre organizzate dalla Fondazione Ferrara Arte e dal Servizio Musei d'Arte del Comune di Ferrara. Maurizio Bottoni, Eterna Pittura, quest'oggi la puntata precedente in mostra, protagonista Antonio Maria Nardi, I colori della vita. Mi scuso per gli scricchioli che This World degli 07 ha portato all'ascolto, ma è un vinile che praticamente ho ad opero a ogni set, quindi anche lui un pochettino provato. Sono le 8:27 minuti che scoccano in questo momento per il nostro giovedì di Forza Artistica, 11 luglio 2024. Conclusa è questa parte estense, tra pochissimo daremo un'anticipazione invece che ci porterà a Bologna per quanto riguarda la curatela di Teatro dei Mignoli ai 300 Scalini, un'esposizione appunto che sarà dal 19 luglio in tale rassegna e in tale sede. Ne parleremo tra poco. Intanto Jukka Eskola, trombettista finlandese, anche lui talentuoso, che si ispira al passato. A tra poco.